in primo piano. Martedì 17 maggio, beh, i titoli ovviamente sono tutti dedicati alla situazione delle amministrative, soprattutto Milano è in primo piano. Il Sole 24 Ore: Milano punisce PDL e Lega. Per il Corriere: sorpresa Milano, Pisapia in testa. Per Repubblica: Milano, la sconfitta di Berlusconi. Per La Stampa: Milano, shock per Berlusconi. Poi giornali, diciamo, più schierati politicamente. Al centro-est Il Giornale: tira brutta aria. Questo è il titolo. Mentre Libero titola: caduta voti, pericolo. E c'è il segnale del pericolo stradale con al centro del triangolo rosso la faccia di Silvio Berlusconi. Invece nel centro-sinistra esultano. Il Manifesto titola con la foto di Pisapia: che sballo. Mentre l'Unità titola: finalmente c'è la foto di persone festanti al comitato di Pisapia. Il Fatto Quotidiano titola: Berluscrack. Mentre il Messaggero: svolta Milano, sconfitto Berlusconi. Anche Il Secolo: Milano tradisce Berlusconi. Il leitmotiv l'avete capito, ma ci dedicheremo alla rassegna stampa dopo la pubblicità per quel che riguarda l'ampia pagina elettorale, poi lo speciale dalle 8:20. Intanto, cosa voglio segnalare che troviamo su tutti i giornali, mi ha molto colpito questa notizia, la troviamo a pagina 41 del Corriere della Sera, ma anche su Repubblica, sulla Stampa, vi dedicano tutti una pagina. Se un test da 500 euro ci dice quanto vivremo. Lo leggo da Edoardo Boncinelli, che è uno scienziato e ne scrive sul Corriere della Sera. Sarà presto in vendita in Gran Bretagna. C'è qualcosa nelle nostre cellule che si accorcia con ritmo costante col passare degli anni. Si chiamano telomeri. Sono della sorta di cappuccetti che servono a proteggere l'estremità di tutti i nostri cromosomi. Ebbene, è uscito un test, racconta Edoardo Boncinelli, e sarà presto in vendita in Gran Bretagna a 435 sterline, circa 500 euro, che misurerà la lunghezza dei nostri telomeri. Più sono corti, e più le prospettive di vita si accorciano. Questo pone degli inquietanti interrogativi. Boncinelli stesso ci dice e si chiede: ma è giusto sapere quanto vivremo? Dal punto di vista esistenziale è bene o male sapere queste cose? E si risponde Boncinelli: io sono sempre stato convinto del fatto che sapere è meglio di non sapere, ma è chiaro che questa conoscenza comporta spesso un di più di consapevolezza, un'assunzione di responsabilità. Insomma, il dibattito è scientifico ma anche etico. Addirittura sulla Stampa, che pone sotto questo titolo: quanto mi resta da vivere, lo dice un test del DNA, un semplice esame del sangue che proprio andrà a verificare la lunghezza di questi telomeri. E la Stampa adombra il sospetto che ci siano già le assicurazioni che potrebbero speculare sul valore delle polizze vita, chiedendo magari: ce l'hai lungo il telomero o ce l'hai corto il telomero? Mi fai vedere l'esame? Insomma, questa notizia mi ha un po' inquietato, ma anche molto interessato. La trovate un po' su tutti i giornali. A me i telomeri stanno già un po' sulle balle, ve lo dico. Intanto andiamo alla pubblicità e al meteo e poi ci rituffiamo nella rassegna stampa con le amministrative in primo piano. Allora, come detto, alle 8:20 faremo uno speciale amministrative fino alle 10 con Giuseppe Cruciani, anche qui in studio a fianco a me. E allora, che dire, di cosa parleremo? Beh, il voto delle amministrative che prende anche la maggior parte dei giornali con i commenti. Andiamo a vedere qualcosa riguardo ai risultati e ai retroscena di come hanno reagito i massimi esponenti della politica, perché vabbè, il voto di Milano è quello su cui tutti più si concentrano, con l'exploit sicuramente inatteso del candidato del centro-sinistra Giuliano Pisapia, che ottiene alla fine il 48% dei voti a fronte del 41,7% di Letizia Moratti, che è il sindaco, candidato sindaco per il centrodestra. C'è da dire che questo fa commentare, per esempio, a Piero Bassetti, 82 anni, imprenditore, ex governatore della Lombardia, in maniera molto roboante, a pagina 6 del Corriere della Sera: è come la liberazione del fascismo nel 45, il duce è durato 20 anni, il berlusconismo 17, era ora, in Italia tutto nasce e muore qui, era successo con Mussolini, ora succede con Berlusconi. Molto, molto forte queste dichiarazioni di Piero Bassetti, però certo c'è quello che il Corriere definisce lo shock del Cavaliere. Allora, ufficialmente Berlusconi non ha parlato, anche Letizia Moratti ieri ha fatto una dichiarazione in tarda serata, una dichiarazione un po' di prassi, insomma, a dire ora bisogna riaggregare la squadra per il ballottaggio. Però certo bisogna fidarsi un po' in retroscena dei giornalisti. Lo shock del Cavaliere: secondo il Corriere c'è stata una telefonata gelida con il leader della Lega Umberto Bossi. Lo sfogo, racconta Marco Galluzzo, è: non posso credere che vinca la sinistra estrema. C'è chi nello staff di Berlusconi parla di disastro, bagno di sangue. È colpa della Moratti che non sa comunicare, non sta simpatica ai milanesi, è colpa della Lega che non si è impegnata, ha preso meno voti di quelli attesi. Questa sarebbe la linea, secondo il retroscena di Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, di Berlusconi. Una tragedia di proporzioni bibliche, enfatizzano in Via dell'Umiltà la sede del PDL a Roma. Sta di fatto che, insomma, che ci sia una situazione da che botta, così la titola anche Libero, giornale sicuramente vicino al governo. Anche Maurizio Belpietro lo scrive nel suo editoriale di prima pagina. Per essere franchi fino in fondo, scrive Maurizio Belpietro, quello uscito dalle urne non è l'esito di ciò che si è fatto o non si è fatto a Milano. Certamente il bilancio municipale conta, ma adesso si aggiunge l'immagine complessiva della maggioranza a livello nazionale. Il centrodestra nel 2008 è stato eletto con un forte consenso che nelle elezioni di medio termine è stato confermato, ma da allora, poco più di un anno fa, tutto è cambiato. Tanto che Maurizio Belpietro titola il suo editoriale campanello d'allarme per il governo. E per Libero Berlusconi viene definito nero. Subito al lavoro, pare che questa mattina abbia già, racconta Salvatore Dama, annunciato una task force, di tutta una riunione con tutti i suoi più stretti collaboratori. Un Berlusconi dato per molto arrabbiato, e non ci vuole un genio per capirlo. Sapeva che per Letizia era una partita in salita e ha subito riunito il cosiddetto gabinetto di guerra oggi per pianificare il ballottaggio. Per l'Unità la posizione di Berlusconi sarebbe questa: ha sbagliato Letizia Moratti anche sulla questione della famosa accusa a Pisapia, gli sono costate il 2-3%, ma dice, secondo l'Unità, ha dovuto difenderla Berlusconi pubblicamente anche se in realtà era un errore. Ora ovviamente tutti sono concentrati anche sulla reazione della Lega, Lega che peraltro a Milano perde anche lei molti voti, così come Berlusconi stesso. Pensate che nel 2006 Berlusconi aveva preso circa come capolista una 50.000 preferenze, ora pare che ne abbia prese circa la metà, 26.000 preferenze. Secondo Repubblica, nella retroscena di Francesco Bei a pagina 3, il Cavaliere ora teme la vendetta di Bossi. E come avrebbe definito la situazione a Milano Berlusconi, sono sempre retroscena, ricordate, non sono dichiarazioni pubbliche, l'avrebbe definita una Caporetto. Una Caporetto: Pisapia può vincere al primo turno, questo si era sparsa come voce al pomeriggio. Poi Pisapia in realtà non ha vinto al primo turno, ma ammette l'inquilino di Palazzo Chigi, è comunque una Caporetto. E poi il timore è con Bossi ci sentiremo oggi per valutare a mente fredda i risultati. In realtà il Corriere dice che c'è stata una breve telefonata, anche se gelida, ieri. Vai a capire quale delle due versioni sia vera, tra Berlusconi e Bossi. Berlusconi che avrebbe detto, sfogandosi in privato: io pago gli errori di tutti, sapevo che Milano era difficile ma mi sono sacrificato lo stesso, il problema è che quando alzo la mia bandiera mobilito i nostri elettori ma faccio andare al voto anche quelli della sinistra che mi odiano. L'unica soddisfazione allora è vedere il fiasco di Fini con Future Libertà, che è diventato il terzo partito del terzo polo. La Lega, allora, la Lega c'è da dire che la linea politica ufficiale è quella data dalla Padania, la quale titola l'organo della Lega un voto anormale. Milano non è mai stata in mano ai Beppe Grillo e all'estrema sinistra. E tra l'altro nell'editoriale di prima pagina firmato da Stefania Piazzo, la versione ufficiale della Lega è questa: un voto anormale. Milano non è mai stata, appunto, in mano agli estremisti Beppe Grillo. Tradotto, la Lega conferma l'alleanza, non rompe nulla e Bossi parlerà oggi. Insomma, questa è la versione molto prudente, la versione ufficiale per l'appunto. In realtà Tutti i giornali, gli altri giornali, a parte la Padania, raccontano di un Bossi furioso. Pare che abbia detto in maniera molto chiara ai suoi più stretti collaboratori: siamo stati sconfitti a Milano per colpa del Popolo della Libertà, per colpa del Cavaliere. Racconta per esempio Giovanni Cerruti sulla Stampa: un lunedì pomeriggio così nella sede di Via Bellerio non c'è leghista che possa dire di averlo previsto. Bastava sentire Matteo Salvini, che con Moratti sarebbe il vice, a dire alle telecamere: per il momento ringraziamo tutti quelli che ci hanno votato. Di solito queste sono le frasi di chi ha perso. E sta di fatto che, secondo tutti i giornali, praticamente Bossi avrebbe commentato: se perdiamo Milano, abbiamo perso per colpa di Berlusconi. Addirittura qualcuno nei vari retroscena fa dire che qualcuno nella Lega anche gongola a dire: ora finalmente potremo dire che abbiamo perso per colpa del Popolo della Libertà. Certo che queste elezioni possano essere anche un test per il governo, lo conferma anche, sempre che vengano poi confermati i ballottaggi, per esempio, soprattutto sulla vicenda Milano, lo conferma un lungo commento di Francesco Verderami a pagina 11 del Corriere della Sera, dal titolo: governo, riappare lo spettro della crisi e si rafforza il ruolo del Quirinale, sul tavolo della maggioranza anche i rischi legati a una ricandidatura di Berlusconi. Se cadrà Milano, capitale del patto Premier-Senatur, il PDL non esclude la caduta del governo. Questo si legge appunto nel commento di Francesco Verderami. Insomma, diciamo che tutti sono soprattutto concentrati sulla questione Milano. C'è ovviamente da analizzare anche perché, vabbè, le situazioni, non so, Bologna e Torino sono concluse, avendo vinto al primo turno Fassino a Torino per il centrosinistra, così come il centrosinistra a Bologna con Merola. C'è anche tutta la vicenda di Napoli, molto interessante, perché a Napoli è in testa al primo turno il candidato del centrodestra Gianni Lettieri col 38,3%. La vera sorpresa è il fatto che c'è stato un tracollo del Partito Democratico al 19,8% col candidato Morcone, e invece Luigi De Magistris, cioè il candidato dell'Italia dei Valori, è al secondo posto, andrà lui al ballottaggio con Gianni Lettieri, al 27,2%. Ora ci si chiede che succederà. Quelli che hanno votato PD voteranno per De Magistris al ballottaggio? Beh, De Magistris in un'intervista a Repubblica dice: con il PD l'intesa non è così automatica. Io non devo fare appelli, voglio dire innanzitutto grazie ai napoletani che hanno creduto nel sogno. Eravamo soli, avevamo contro tutti, dal Partito Democratico al Popolo della Libertà. Ora so che ce la possiamo fare, sarò il sindaco dei napoletani, non sono né il candidato IDV né quello di un partito o di una parte soltanto della città. E riguardo l'apparentamento con il PD, ho già detto in modo molto chiaro che sono per gli apparentamenti sostanziali molto più importanti di quelli formali. Insomma, anche la vicenda di Napoli, certo, la tratteremo in questo speciale, ripeto, dalle 8:20, arriverà anche il nostro Giuseppe Cruciani qui, dalle 8:20 alle 10 le elezioni amministrative, con tanti ospiti ovviamente. E poi che cosa? Beh, dopo il traffico ci tufferemo nel giallo di Dominique Strauss-Kahn. È una vicenda davvero sempre più intricata, sempre più inquietante. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale resta in carcere, rischia 70 e più anni di carcere per l'accusa di stupro e non solo. Beh, vedo in TV e fa sempre un certo effetto vedere uomini di potere poi in momenti così drammatici. In TV sta passando proprio l'udienza a New York, nella quale il giudice newyorkese ha confermato il carcere per Dominique Strauss-Kahn, per il quale gli avvocati avevano chiesto una cauzione da $1 milione per liberarlo. Ma Strauss-Kahn resta in carcere, come titola pagina 5 Il Sole 24 Ore: respinta la richiesta di cauzione da $1 milione, dovrà ripresentarsi davanti alla corte il 20 maggio. Le accuse sono pesantissime. Il giudice è una donna, Melissa Jackson, della Manhattan Criminal Court, e ieri ha raccontato di come l'accusato ha avuto un rapporto sessuale orale, uno anale, con una persona sotto costrizione. Si parla anche di sodomia forzata. I reati sono violenza sessuale di primo grado, aggressione sessuale di primo grado, tentato stupro, sequestro di persona di secondo grado, aggressione sessuale di terzo grado, palpeggiamenti forzati. Rischia 74 anni e 3 mesi di carcere. Davvero una vicenda incredibile. È stato anche portato in manette, da qui le polemiche, ma in America è abbastanza abituale, invece in Italia e in Europa ha suscitato anche molte polemiche questa immagine di Strauss-Kahn accompagnato, ammanettato in aula. Il giudice praticamente ha detto potrebbe fuggire, dunque deve restare in cella. Se è vero che è stato braccato o preso quando era su un aereo per la Francia, ecco che il giudice agli avvocati ha detto: guardi, il fatto che sia stato preso all'aeroporto pronto a prendere il volo mi preoccupa abbastanza, ha detto il giudice, per usare un eufemismo, agli avvocati, respingendo la cauzione. Oh, c'è da dire che fioccano su tutti i giornali le idee del complotto, addirittura Repubblica ci fa un'intera pagina, gli orari, il volo, misteriosi Twitter, dettagli che fanno gridare al complotto. Per esempio, perché era New York quando lui stava sempre a Washington, quando stava in America? Non aveva appuntamenti a New York. Perché poi ha un appartamento a New York e invece è andato a alloggiare in questa suite da $3,000 al giorno al Sofitel? Ha una scorta 7 giorni su 7. Dov'era questa scorta quel giorno? E poi ci sono discrepanze sull'orario, addirittura qualcosa di esoterico. Bernard Henri Lévy fa notare sul Corriere della Sera che la stanza nella quale è successo il fattaccio è la 2806. E in che giorno ci saranno le presidenziali nel 2012 nella quale doveva essere candidato Strauss-Kahn? Il 28 giugno, il 2806. Vabbè, qui siamo veramente alla fantascienza e all'esoterismo. Sta di fatto che certo anche Libero titola così: complotto? Col punto di domanda a pagina 18. Strauss-Kahn addirittura pare, racconta in questo articolo Libero, avesse raccontato il 28 aprile 2010 a un giornalista del quotidiano Libération, in una conversazione privata, in un pranzo informale nel quale aveva chiesto al giornalista di lasciare via i cellulari, e nel quale Strauss-Kahn si era presentato con uno strumento per evitare le intercettazioni, perché pensava di essere intercettato, pare che avesse detto a questo giornalista: va a finire che troveranno una donna che mi accuserà di averla violentata in un parcheggio pubblico, a cui avranno promesso 500.000 o 1 milione di euro per inventarsi una panzana così. E Strauss-Kahn a questo giornalista aveva detto: sì, adoro le donne, e allora? Da anni si parla di prove fotografiche di orge per incastrarmi, non ne ho mai visto una, il momento che le tirino fuori. Addirittura, secondo Libero, per insomma, calcare l'idea di questa idea di complotto, durante una pausa di un summit nel quale Strauss-Kahn si trova a fianco in un pisciatoio con Nicolas Sarkozy, cioè mentre i due fanno pipì, lui e il presidente della Francia, pare che Dominique Strauss-Kahn gli abbia detto a Sarkozy: smettetela di indagare sulla mia vita privata, perché sapeva di essere controllato. Ma davvero, sta di fatto che il reato è gravissimo. Questo è il primo punto. Oh, per rimanere sul Sole 24 Ore, voglio ricordare che il Sole 24 Ore dedica la pagina 3, la prima notizia economica, a un italiano, Mario Draghi, che titola al Sole: è senza rivali alla Banca Centrale Europea. Dino Peso le racconta a Bruxelles come sia stato designato all'unanimità, con un responso giunto a tarda serata dell'Eurogruppo, Mario Draghi è il candidato unico alla presidenza della BCE. Per carità, non è ancora il passaggio esclusivo, formalmente la decisione spetta ai capi di Stato e di Governo che si riuniranno a Bruxelles il 24 giugno, dunque c'è ancora un mese. Pare che il caso che ha travolto il direttore del Fondo Monetario Strauss-Kahn è sembrato a un certo punto frapporsi anche sul cammino di Draghi, racconta Dino Pesole, ma l'incarico dovrebbe davvero, a partire dal prossimo 1 novembre, spettare a Mario Draghi, a capo della Banca Centrale Europea, ma non resta che attendere un altro mese. Tra l'altro, sul Sole oggi vi voglio segnalare una pagina molto utile per tutti coloro che vogliono sapere le ristrutturazioni della casa, i quesiti dei lettori che sono arrivati e ai quali vengono date risposte su tutte le novità dedicate al tema casa. Le trovate a pagina 35 sugli incrementi volumetrici, sui vialetti privati, sulle relazioni tecniche per abbattere pareti interne, cioè domande pratiche e risposte pratiche che trovate oggi sul Sole 24 Ore a pagina 35 per tutto quello che riguarda la vicenda casa e novità. Devo chiudere solo con una storia che il Messaggero mette in prima pagina. C'è solo tempo per riassumerla. Nino Cirillo in fuga coi risparmi dei clienti. A Castel San Pietro, la direttrice delle Poste, sfruttando un weekend lungo, un ponte, sfruttando l'ingenuità di tutti, la fiducia del fatto che era la direttrice, pare sia sparita con 2 milioni di euro. Un malloppo messo insieme facendo la cresta sugli interessi di ingenui pensionati, contadini semi-analfabeti. Gli ispettori sono arrivati, hanno trovato tutto inspiegabilmente prosciugato e 2 milioni di euro che sono spariti con la direttrice delle Poste di Castel San Pietro. Spiace soprattutto per tutti i truffati. In fuga con i risparmi dei clienti è una storia che trovate in prima pagina del Messaggero. Ci fermiamo alle 8:20 con Giuseppe Cruciani, lo speciale amministrativo dopo il GR.